meglio ti guiderò e tutto ciò che so te lo insegnerò finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Viaggi insieme a me, io ti guiderò e tutto ciò che so te lo insegnerò finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Viaggi insieme a me, io ti guiderò e tutto ciò che so te lo insegnerò finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Viaggi insieme a me, io ti guiderò e tutto ciò che so te lo insegnerò finché arriverà il giorno in cui, io ti porterò dove non sei stato mai e ti mostrerò le meraviglie del mondo e quando arriverà il momento in cui andrai, tu guiderai, tu lo insegnerai ad un altro come te. Vieni insieme a me, io ti guiderò e tutto ciò che so ti insegnerò finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Vieni insieme a me, io ti guiderò e tutto ciò che so ti insegnerò finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me.